Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dall'emittente di Radio Onde Furlane da Udine. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma adesso andiamo con la sigla. Bene, scusate, guasto tecnico, insomma fa parte della diretta radiofonica. Vabbè, dai, era la sigla, l'avete ascoltata tantissime volte, il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, e questo è il programma Zardins Magnetics. Andremo avanti fino alle ore 21:30, siamo in diretta come ogni giovedì. Il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ma ora andiamo all'ascolto di un paio di brani, insomma, di questa band canadese nell'area di Montreal. Loro sono i Praying Hands e questo è il loro unico album, proprio l'unica testimonianza sonora, uscita nel 2009. L'LP è Through the Dark, e comunque è la band che successivamente nata allo scioglimento dei Ballast, band che appunto ha prodotto molteplici uscite discografiche in vinile, LP, eccetera eccetera. Comunque noi ci ascoltiamo i Praying Hands. Behind the thread, the darkness is buried, contained under rot. La patria di Beccaria, una patria di Becchini. In tanti vogliono il morto, ma nessuno si assume la responsabilità di vestire i panni del boia. In compenso sono tanti i Becchini pronti a gettare palate di fango per preparare la fossa all'anarchico. Un balletto sguaiato e scomposto attorno a una forca, tolleranza zero, scarica barile istituzionale, cambi di rotta a seconda dell'audience. Lo spettro dell'anarchia che tiene sotto scacco il governo, anzi lo Stato, pardon. E poi gli anarchici stragisti, collusi con i mafiosi stragisti, con la comparsata del PD. Un teatro mal scritto e mal recitato, un arrabattarsi di esperti ignoranti, mentitori professionali e compulsivi, basso giornalismo, ignavia e vigliaccheria che non fa altro che rivelare quella che è la potenzialità di un individuo che intraprende da solo una lotta contro il Moloch statale. Un Moloch, tra l'altro, che i suoi stessi costruttori dichiarano ben fragile, se bastano scritte sul muro, vetrine rotte e qualche auto bruciata a metterlo in pericolo. Da ogni lato da cui la si guardi, la lotta di un anarchico, trovatosi scaraventato in un regime di tortura, ha spezzato la narrazione imperante. Nonostante il ridicolo tentativo di accreditarlo come colluso, o ancor peggio, diretto dalla mafia, nonostante il ridicolo tentativo di travisarne atti e parole, sembra che un po' di senso critico prevalga e il tentativo di minarne credibilità ed integrità ottiene l'effetto inverso, di far emergere la coerenza lineare di antiautoritari e rivoluzionari che difendono e continuano a difendere idee e pratiche senza farsi distrarre dai fuochi d'artificio della politica mediatica postmoderna e si uniscono dove la repressione vorrebbe dividere. Se si sposta l'attenzione dalla cortina fumogena che è stata sollevata costringendo così a rispondere a castronerie di bassa lega, basterebbe appellarsi ai cardini del pensiero antiautoritario. Parlare di una saldatura tra anarchici e mafia e del suo corollario che l'antagonismo di piazza sostenga i mafiosi è un ossimoro, così come lo sarebbe parlare di una saldatura tra anarchici e Stato, per chi casomai qualcuno l'avesse dimenticato, di rifiuto della delega politica ha fatto da sempre un baluardo contro le derive rappresentative e il mercato che vi è sotteso. Così come opporsi al carcere e alla tortura non significa santificare quanti vi stanno dentro, spesso manovalanza asservita e o applicante pure le stesse dinamiche politiche ed autoritarie. L'anarchismo ha la colpa di essere stato spazzato via e maltrattato dalla storiografia ufficiale o fagocitato nel vortice di quell'analfabetismo culturale tipico dell'incultura digitale del XXI secolo. Eppure il suo contributo allo sviluppo delle tensioni e del cammino rivoluzionario degli ultimi due secoli è stato fondamentale, benché se spesso sovraesposto al rischio di strumentalizzazioni, epurazioni interne o autodissoltosi, incapace di far fruttare i risultati ottenuti a lungo termine. L'anarchismo ha però il pregio di essere una mala pianta, tenace e difficile da estirpare, che ricaccia più potente se si cerca di eliminarla. È quello che stiamo vivendo, la capacità mercuriale di unirsi e dividersi. La fluidità e l'imprevedibilità hanno fatto sì che ci sia stata la capacità di sollevare una delle questioni più spinose, censurate e travisate, carcere e regime di tortura. Tanto ci sarebbe da discuterne nell'immediato e in prospettiva. Ora c'è un uomo da sostenere fino in fondo, visto che sulla sua pelle stanno giocando in troppi. Senza ritegno. Anna Beniamino, 5 febbraio 2023. Sì, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardis Magnetics. Siamo qua in diretta da Radio Onde Furlane e appunto questa era una lettera che Anna Beniamino ha inviato dal carcere sulla questione, insomma, della lotta di Alfredo e della lotta di tutti noi a suo sostegno. E così abbiamo scelto di iniziare con questa lettera, una lettera importante perché comunque pone l'attenzione sulle potenzialità e sulle possibilità di questa lotta e anche sulla, appunto, sulle capacità, insomma, dell'anarchismo di non sottomettersi, di non scomparire, di non farsi annientare, appunto su questa capacità mercuriale di unirsi e dividersi, che è importante. Poi Anna sottolinea questa cosa, che la repressione ha ottenuto un'unione, non una divisione, anche questo è una cosa molto importante. E in coda, così voglio, do qualche aggiornamento sulla situazione di Alfredo. Ricordiamo che domani, che è il 24 di febbraio, ci sarà la sentenza della Corte di Cassazione rispetto alla richiesta, al ricorso contro il 41 bis e quindi alla richiesta di declassamento. E ieri, appunto, l'avvocato ha dato un aggiornamento sulla situazione anche della salute di Alfredo. Il medico l'aveva visto, il medico di fiducia l'aveva visto, si è recato all'ospedale di San Paolo di Milano lo scorso sabato e l'aveva trovato, diciamo, abbastanza, aveva trovato una situazione abbastanza stabilizzata. Però chiaramente l'avvocato ci ricorda che Alfredo ha superato i 120 giorni di sciopero della fame, è molto stanco, deambula con difficoltà, passa la giornata praticamente a letto, perché appunto non riesce a fare granché, la sua mente è perfettamente lucida e continua a essere determinato nella lotta per sé e contro il 41 bis in generale. L'avvocato poi, appunto, ieri in una trasmissione, sì, una telefonata a Radio Blackout, insomma, ha dato un po' questi aggiornamenti e poi ha anche parlato ha prospettato le ipotesi che si possono prefigurare domani. Allora, ci sono quattro ipotesi. La migliore, diciamo, è quella dell'annullamento del 41 bis senza rinvio al Tribunale di Sorveglianza, quindi praticamente l'annullamento del 41 bis, il declassamento in alta sicurezza 2, regime differenziato, ma insomma meno di tortura di quello del 41 bis, al quale era già stato nel quale era già stato rinchiuso per 10 anni Alfredo. Quindi questa è l'ipotesi, diciamo, migliore. E poi ci potrebbe essere un annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza. In questo caso Alfredo rimarrebbe al 41 bis in attesa che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ritorni, che al Tribunale di Sorveglianza di Roma ritorni il fascicolo e quindi venga fissata un'altra udienza che riesamini di nuovo la situazione alla luce praticamente dei principi di diritto che verranno affermati dalla Corte di Cassazione, quindi un procedimento lungo. Poi si potrebbe concludere domani con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro il 41 bis e ancora, l'ipotesi ancora più tetra, con il rigetto che sconfessa radicalmente il ricorso che l'avvocato ha presentato in Cassazione. Allora, anche per una questione di lucidità, insomma, e di aver ben presente come stanno le cose, in tre su quattro di questi esiti, diciamo, Alfredo smetterà anche di prendere gli integratori che adesso ha accettato di riprendere, appunto, in attesa di questo pronunciamento del 24 febbraio. Ecco, quindi la situazione è questa, insomma. Saperlo, insomma, sperare, ma anche non farsi grandi illusioni rispetto alla giornata di domani, perché la dimensione, diciamo, il piano giuridico è sempre un piano opinabile e poi in questo caso, come bene ha detto l'avvocato, insomma, non sto a ripetervi, anche perché non sono in grado di ripetervi i termini come li dice l'avvocato, ma potete andare ad ascoltare l'intervista, ha specificato molto bene, insomma, la manipolazione politica che c'è da parte del Ministero e delle varie procure in questa situazione, quindi sì, potete appunto riascoltare e farvi un'idea ancora più precisa. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Montreal in Canada, i Praying Hands, dall'album datato 2006 Through the Dark, unica uscita discografica per questa band che è Ex Ballast. Comunque ora andiamo all'ascolto di una band scozzese storica nell'anarco punk internazionale, loro sono gli Oi Polloi e ci ascoltiamo dei brani dal loro album 2016, datato 2016, Saursa, Oi Polloi. Dancing to the rhythm of a prog or beat. Sì, ritorniamo in voce, siamo sempre su Zernis Magnetics, appunto, così appuntamento controinformativo dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e del Friuli. Scusate se la voce è un po' bassa, sono un po' stasera sono un po' suonata. E allora, continuiamo a parlare della giornata di domani, che è una giornata particolare. Abbiamo detto che appunto 24 febbraio si pronuncerà la Corte di Cassazione sul ricorso contro il 41 bis inflitto ad Alfredo Cospito e quindi sul suo possibile declassamento. Questo in Italia. Invece ci sarà un altro appuntamento importante in Francia, dove la Corte di Appello di Lione dovrà decidere se consegnare Vincenzo Vecchi, il compagno che è stato condannato a 11 anni per i fatti del G8 di Genova del 2001. E appunto la Corte di Appello di Lione, dicevo, dovrà decidere se consegnarlo all'Italia per il reato di devastazione e saccheggio in base al codice Rocco. E questi due momenti sono abbastanza cruciali e sono stati così analizzati dall'assemblea Sosteniamo Vincenzo, e che ne ha fatto un documento che vorremmo leggere, perché appunto è un documento interessante, insomma, che anche questo dà molti spunti. Ecco, quindi vi leggeremo questo documento. Possibilità della lotta e l'essenza politica della legge. Due lotte, una stessa data e altre analogie. Le possibilità della lotta e l'essenza politica della legge. Due lotte, una stessa data e altre analogie. È indubbio che solo la lotta apre delle possibilità, anche solo di resistenza. Per il 24 di febbraio sono attese le decisioni di due corti di giustizia, entrambe molto rilevanti. La prima è attesa in Francia, dove, dopo tre anni di battaglie giudiziarie, la Corte di Appello di Lione dovrà decidere se consegnare Vincenzo Vecchi all'Italia, dove deve scontare 12 anni per il reato di devastazione e saccheggio in base al Regio Decreto del 19 ottobre 1930, numero 1398. La seconda è attesa in Italia, dove la Corte di Cassazione dovrà decidere se Alfredo Cospito, in sciopero della fame da ormai 4 mesi, debba rimanere segregato nel regime carcerario speciale applicato con l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, introdotto in via emergenziale e mai più abolito. La rilevanza di queste decisioni è dimostrata anche dalla difficoltà del quadro istituzionale ad assumersi la responsabilità ultima delle scelte in gioco. In Francia si tratta di prendere la decisione definitiva attorno a un caso di rilievo internazionale che chiama in causa il funzionamento della giustizia europea. In effetti, la Corte di Lione potrà confermare i precedenti pronunciamenti che avevano bocciato come irricevibile la richiesta di estradare in Italia Vincenzo Vecchi per un reato inesistente in Francia, o al contrario potrà decidere di applicare il principio del mutuo riconoscimento, allineandosi alle indicazioni ricevute recentemente dalla Corte di Giustizia Europea. In questo caso la Francia accetterebbe di approvare sul proprio territorio un mandato d'arresto fondato su un articolo di legge di forte connotazione fascista, la devastazione e saccheggio, senza paragoni nel codice penale francese e probabilmente in quello di nessuno degli altri paesi europei. Ideato nel 1930 da Alfredo Rocco, ministro della giustizia del governo Mussolini, che la considerava orgogliosamente legge fascistissima e contraria ai diritti dell'uomo, poi riesumata dalle procure italiane a cavallo degli anni 2000 per colpire il pericolo pubblico del momento, il Black Bloc. Accordare questa estradizione significherebbe avallare a livello europeo la minaccia di leggi di origine fascista che non dovrebbero trovare approvazione automatica fuori dai nostri confini. Accordare questa estradizione significherebbe per la Francia abdicare alla possibilità di rifiutare un mandato d'arresto persecutorio anche quando non è rispettata la doppia incriminazione. Tutto questo avrebbe conseguenze per tutti, oltre ad impattare nuovamente sulla vita di Vincenzo, già condizionata da tanti anni di esilio e latitanza, peraltro consegnandola nelle mani di un governo in aperta continuità ideologica con quella tradizione politica autoritaria. In Italia la decisione è se mantenere Alfredo nel regime di isolamento totale del 41 bis o se trasferirlo in una sezione di alta sicurezza. Per come le cose si sono evolute in questi 4 mesi di sciopero della fame, la decisione è anche più brutale. Se la revoca del 41 bis decreterebbe l'immediata fine dello sciopero, la scelta di confermare questo trattamento di tortura comporterebbe, al contrario, la morte di Alfredo. Questo perché è oramai chiaro a tutti quanto Alfredo sia deciso a proseguire la sua lotta fino all'ultimo respiro. Le due vicende, oggettivamente molto diverse, presentano tra loro alcune analogie. Entrambe mostrano l'esistenza di norme di carattere eccezionale, nate in contesti emergenziali e quindi di natura temporanea, che assumono nel tempo valenza ordinaria. Il discorso vale per una legge come la devastazione e saccheggio, ideata sotto il fascismo e interiorizzata dalla giurisprudenza successiva, e vale per il 41 bis, ideato dopo le stragi del 92 e prorogato per 30 anni fino ad incastonarsi nell'ordinamento penitenziario. Queste eccezioni creatrici di norma mettono a nudo l'arbitrarietà del diritto che si autosospende per alcune speciali categorie di persone, creando una penalità parallela dove quasi tutto è permesso. È evidente come questo diritto penale del nemico stia scavando fosse punitive che non si sa quanto profonde possano diventare nel tempo e a quante e quali persone possano essere destinate. In entrambi i casi il possibile ha superato il probabile, perché la lotta ha spinto gli eventi più in là di quello che era immaginabile in principio. Nel caso di Vincenzo, quello che poteva essere solo una brutta grana giudiziaria da affrontare in solitudine per tramite di una sbrigativa procedura ordinaria è stata trasformata in una questione di libertà collettiva che oggi inchioda la Francia al bivio e svela gli spietati automatismi falsamente apolitici della giustizia europea. Nel caso di Alfredo, quando 4 mesi fa iniziava il suo sciopero, in pochi si sarebbero aspettati di ritrovarsi più di 100 giorni dopo ancora qui con Alfredo vivo e una lotta ancora aperta, deflagrata nel quadro istituzionale, tanto in profondità da fessurare il pozzo più buio dello Stato, quelle sezioni di carcere duro dove i buoni torturano i cattivi con l'approvazione della propria stessa legge. In entrambi i casi la determinata caparbietà di una lotta di resistenza ha semplificato la realtà, l'ha resa più comprensibile, ha mostrato come dietro ai grovigli della burocrazia tecnico-giuridica si cela sempre una scelta di natura sostanzialmente politica. In entrambi i casi è, infine, chiaro a tutti come la solidarietà non sia una semplice attività di testimonianza, ma un'arma per allargare il ventaglio delle possibilità in campo, per costringere la realtà a manifestarsi, anche nella sua cruda e feroce nudità, senza attenderla passivamente e senza mai rinunciare alla possibilità di resistere, nonostante le difficoltà e le contraddizioni di ogni battaglia, il cui esito non è mai scontato fino alla fine. Per questo, il 24 di febbraio saremo a Lione per sostenere Vincenzo in questa udienza cruciale. Lo faremo pensando anche a quanto in Italia si decide in merito allo sciopero di Alfredo. Lo faremo perché siamo convinti e convinte che oggi più di ieri la solidarietà deve essere in grado di superare le nazioni e i confini per essere all'altezza della gravità del momento. Consideriamo importante dare un segnale di presenza internazionale e internazionalista in questa data, nonostante lo sforzo che comporta. E poi i compagni e le compagne dell'assemblea Sosteniamo Vincenzo invitano all'appuntamento, appunto ci sarà questo pullman che da Milano, confermata anche a Chianocco, arriva fino a Lione appunto per l'udienza di domani mattina alle 10:30. Stiamo ascoltando questa band di Torino, band che è esistita tra il 1980 e il 1985, e nel 2012 è uscito un LP che si intitola Il segno dell'inizio, il segno della fine, e praticamente raccoglie delle loro uscite su demo tape dell'epoca, che ovviamente anche con brani estrapolati da compilation sempre dell'epoca di demo tape. Comunque questa, diciamo, è l'unico vinile loro uscito adesso a distanza di quasi 40 anni, ovviamente sonorità sono di quell'epoca, loro sono, come già detto, il Collettivo di Torino. Nella precedente puntata di The Race Magnetics, cioè la scorsa settimana, il 16 febbraio, mi ero riproposta di così fare alcune riflessioni sull'amore romantico, per chi riceve la scaletta, diciamo. Appunto c'era questa voce: 14 febbraio l'amore romantico uccide. Poi vabbè, per vicissitudini personali non ho potuto essere presente lo scorso giovedì e quindi riprendo oggi, non solo sull'amore romantico ma in generale su pensieri, parole e azioni femministe. Allora, rispetto all'amore romantico, appunto, era più, diciamo, il moto di rabbia veniva più la scorsa settimana in quanto era vicina alla festa di San Valentino. E questa festa stucchevole, insomma, vabbè, chiaramente che non ci interessa, ma che dà modo di essere così appestate in giro per le città, per i luoghi, di ninnoli, gadget, insomma, cazzate, di vedere uomini con la rosa in mano, quelle robe lì, insomma. Uomini improbabili, tra l'altro, con la rosa in mano, che si dirigono dopo il lavoro da qualche dolce metà. E, allora, appunto, così, nel furore, diciamo, di quel giorno, mi è venuto in mente un volantino di qualche anno, di un bel po' di anni fa, in verità, che era comparso sui muri di Udine, che recitava: attente ragazze da marito, l'amore senza autodeterminazione è violenza. E l'immagine era una... praticamente un asse di legno, di quelle che servono per tagliare, per fare il trito di prezzemolo e aglio, con un cuore invece inciso, insomma un cuore umano, femmineo in questo caso, alludeva a un cuore femmineo ucciso. E boh, poi anche insomma le compagne della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma hanno dedicato anche loro un piccolo scritto a questo discorso del paradigma dell'amore romantico come praticamente forma di riproduzione disciplinare della vita, tra l'altro amore romantico con le sue leggi che sono eterosessualmente naturalizzate, diciamo, e che appunto anche le compagne ci dicono, insomma, il paradigma dell'amore romantico è parte fondamentale della strutturazione socio-economica di assoggettamento delle donne, come idealizzazione della felicità dipendente da qualcun altro, come inadeguatezza e mancanza senza la metà che ci dovrebbe completare per destino, che porta le donne educate fin dall'infanzia nell'attesa del principe azzurro, nelle sue più svariate accezioni modernizzate, a considerare la conquista dell'amore come realizzazione imprescindibile, a tollerare la violenza nel rapporto, la svalutazione, intesa anche in questo senso come la violenza, a considerare la sofferenza come prezzo da pagare pur di mantenere l'affetto dell'altro, a non considerarsi mai persona compiuta in sé. E appunto, come ci ricordava anche questo volantino comparso un bel po' di anni fa sui muri della città di Udine, attente ragazze da marito, l'amore romantico è uno dei fattori più insidiosi a sostegno della violenza sulle donne. Ed è una strutturazione così forte che il sistema è riuscito a far entrare così profondamente nella nostra costruzione personale da investire anche i rapporti non eteronormati. Ecco, niente, siccome stasera abbiamo parlato poi comunque di possibilità, diciamo, di possibilità anche nei momenti più cupi, di possibilità e di sì, di possibilità, insomma, di cambiamento, di possibilità di sovvertire la realtà anche nei momenti più cupi e più difficili, anche di fronte alle, come dire, agli zoccoli più duri dell'oppressione, in questo caso patriarcale, e sì, è bene, insomma, pensare invece a, dal nostro punto di vista, alla possibilità di denaturalizzare l'amore romantico per, e questa, così, questa possibilità, pensabilità nasce dal desiderio di vivere, di rendere possibile un'altra vita, una vita diversa, e di ripensare proprio il possibile in quanto tale. Quindi si tratta, così, facendo a pezzi, diciamo, l'amore romantico, si tratta di aprire, e le sue leggi, si tratta di aprire delle possibilità, aprire il campo delle possibilità di genere e di relazione, senza già decidere quali saranno queste possibilità, insomma, quali di queste possibilità potranno essere realizzate. E si tratta anche di mettere in discussione la gerarchia dei rapporti sentimentali, affettivi, personali. Ad esempio, una delle violenze, diciamo, sociali che sono sottese al discorso, alla predominanza dell'amore romantico, è il fatto che le relazioni vengono definite, diciamo, a livello di importanza gerarchica, sulla base appunto di un contratto sessuale che c'è tra le persone, ben definito, preciso, come dire, socialmente accettato. E questo preclude un sacco di possibilità di liberazione, appunto, dei rapporti, e anche di possibilità di inventarsi, insomma, nuove forme di relazione, anche nuove forme di socializzazione delle relazioni. Chiaramente queste sono questioni anche molto personali, perché poi ogni soggetto è a sé, ogni soggetto è diverso da tutti gli altri, però sono anche questioni che è necessario, così, pensare e praticare in forma collettiva per, appunto, avere questa possibilità veramente di rivoluzionare la vita. Beh, intanto su questo basta. Questi sono i Drop Dead, band esistita, anzi nata ai primi anni 90 e tuttora esistente. Questo loro album è uscito nel 1998, e così, stupidaggine, particolarità, questo disco ristampato più volte, che comunque parte dal centro verso l'esterno del vinile, quindi all'ultimo brano, se non prende la puntina al volo, ciao. Comunque Drop Dead. Continuiamo con questa carrellata di riflessioni femministe, proponendo un articolo di Nicoletta Poidimani, uscito qualche giorno fa, il 9 febbraio, sul suo blog, che ci parla del monopolio statale della violenza e dell'agonia. Orso che corre trascorre oltre 20 anni nel braccio della morte, dove si ammala gravemente, quasi cieco, ridotto su una sedia a rotelle con il cuore ferito severamente da due infarti. La sua storia evidenzia un aspetto essenziale dell'agonia nel braccio della morte. Due mesi prima dell'esecuzione, Ray Allen viene sottoposto, per decisione istituzionale, a un sofisticato intervento chirurgico al cuore. Lo Stato decide che deve essere tenuto in vita per essere ucciso 60 giorni dopo con una iniezione letale. La vicenda di Ray Allen, orso che corre, Yanu ADC nella sua lingua nativa, è senza dubbio paradigmatica dell'intreccio tra sadismo istituzionale, monopolio statale della violenza e burocrazia che caratterizza la gestione dei corpi reclusi. Ugualmente paradigmatica è la minaccia di sottoporre a nutrizione forzata Alfredo Cospito, recluso in regime di 41 bis e da oltre 3 mesi in sciopero della fame contro quello stesso regime di tortura. Sottrarre e negare al recluso ogni possibilità di autodeterminazione è la dimostrazione più lampante e feroce di quanto il regime carcerario rappresenti esclusivamente la volontà di vendetta dello Stato. Se vuoi vivere, ti seppellisco vivo, viva. Se vuoi morire, ti tengo in vita a forza, lasciandoti sepolto, ovviamente, affinché tu non possa mai fare del tuo corpo uno strumento di resistenza al monopolio statale della violenza. Alcuni anni fa ho avuto occasione di visitare una mostra sulla storia dello sciopero della fame, allestita a Kilmaine Hem Gaul, ex carcere dublinese, dove furono rinchiusi e fucilati anche i principali esponenti dell'insurrezione di Pasqua del 1916. Una sala della mostra era dedicata proprio alla nutrizione forzata, cui furono costrette tanto le suffragette, incarcerate negli anni 10 e 20, quanto le militanti repubblicane Dolores e Marion Price nei primi anni 70 del secolo scorso, ed erano esposti anche gli strumenti di tortura utilizzati per questa violenta pratica coercitiva, poi dichiarata non etica dall'Associazione Medica Mondiale nel 1975. A 50 anni di distanza da quella dichiarazione, non solo le cose non sono cambiate, ma come 2 anni di pandelirio hanno ampiamente dimostrato, il monopolio statale della violenza va a braccetto con la sovradeterminazione da parte istituzionale delle scelte individuali di vita e di morte, così come di quelle relative alla salute e alla cura. La riduzione capitalistica degli esseri umani a merci, la definitiva reificazione e alienazione dell'individuo nelle mani dello Stato e del capitale, passa anche e prima di tutto attraverso la negazione e la criminalizzazione di ogni forma di autodeterminazione. Per questo le lotte contro il carcere e contro tutte le istituzioni totali e le loro propaggini nelle istituzioni ordinarie sono lotte femministe, oltre che libertarie e anticapitaliste, come già le nostre compagne ci hanno dimostrato un secolo fa. Il silenzio del femminismo mainstream su carcere e istituzioni totali e la ricorrente richiesta di leggi contro la violenza maschile sulle donne, oltre a dimostrare un'ignoranza storica abissale, sono i chiari segni di una volontà collaborazionista con chi si arroga il monopolio della vita, della morte e dell'agonia altrui. Stiamo ascoltando gli Autonomous, band inglese, da questo loro album No Man's Land, uscito nel 2008. Bye. Ed eccoci a presentare una iniziativa che si svolgerà l'8 marzo, è appunto un 8 marzo transfemminista e antimilitarista alla base NATO di Teulada, in Sardegna. Allora le compagne che hanno lanciato questa iniziativa nel volantone, così, che è anche molto divertente, lanciano lo slogan l'averete caro, l'averete tutto, in quanto rispetto alle esercitazioni NATO in Sardegna i generali hanno rilasciato questa dichiarazione all'Unione Sarda negli scorsi giorni, dove dicono straordinarie opportunità per turismo e lavanderie. I vertici delle forze armate illustrano i piani di utilizzo dei poligoni per la primavera e decantano i vantaggi. Ottima occasione per l'economia, chi viene ad addestrarsi potrebbe ritornare. Allora appunto le compagne hanno lanciato questa questo corteo, questa manifestazione alla base. Il titolo è appunto Stendi le basi, corteo dell'8 marzo alla base NATO di Teulada. Ci dicono le compagne: l'alta stagione inizia qui, fermiamola qui. Lavandieri, cameriere, lavapiatti, albergatrici, preparate i vostri portafogli, stanno arrivando straordinarie opportunità per voi. A bordo di scintillanti navi Ro-Ro e mimetici aerei, ecco qua migliaia di soldati portatori di panni sporchi da lavare e stomaci da riempire. E non solo, vedendo quale paradiso sia quest'isola, potrebbero addirittura tornarci in vacanza con la famiglia, che culo. Come da tradizione colonialista, la Sardegna viene offerta come parco giochi a turisti e militari. Noi che ci abitiamo, circondate da petrolchimici, pale eoliche, cattedrali nel deserto, gasdotti reali e prospettati, continuiamo ad essere mera manodopera in funzione di queste economie di sfruttamento. Prepariamo i fustini di detersivo, l'alta stagione quest'anno inizia prima. I quotidiani garantiscono che dal 17 aprile al 26 maggio le esercitazioni nei poligoni sardi non si fermeranno mai. Mare aperto 2023, Joint Stars 2023, Noble Jump 2023. Potremo vedere lavare uniformi non solo italiane, ma pure quelle esotiche degli eserciti appartenenti alla NATO. Siamo accoglienti e inclusive, qui si lavano tutte le divise senza discriminazioni. Evidentemente c'è bisogno di fare pulizia. È di poche settimane fa la notizia che il Ministero della Difesa ha richiesto alla Regione Sardegna la valutazione di incidenza ambientale per effettuare una fantomatica bonifica della penisola Delta, qualche anno fa dichiarata praticamente imbonificabile. Bombardato da decenni durante le esercitazioni a mare nel poligono di Teulada, questo sito di interesse comunitario è talmente contaminato da fare tremare i polsi pure ai soldati, che vogliono ripulirlo per poi tornare a bombardarlo. Ci disgusta che le forze armate lavino di verde le loro devastazioni e che persino la fabbrica di bombe e droni killer Rheinmetall RVM a Domus Novas si tinga di rosa e venga premiata per la sua attenzione alla gender diversity e al multiculturalismo, mentre continua impunita la sua produzione letale con la nuova commessa per Israele. L'averete caro, l'averete tutto, siamo coscienti di vivere in un territorio dove sì, le armi vengono prodotte e sperimentate e l'ambiente viene devastato e inquinato, ma facciamo anche parte di quell'Occidente dove la guerra viene preparata per continuare a colonizzare, distruggere e uccidere altrove. Tutto questo serve alla Fortezza Europa per depredare altri territori e risorse, oliare il business degli armamenti, difendere gli interessi di poche persone a costo di molte morti e vite spezzate. Per questo ci sentiamo di dover partire da qui. Non vogliamo lasciare agire indisturbati coloro che tramite un'ordinanza di Stato impediscono alla popolazione di nuotare, ormeggiare, lavorare o anche semplicemente di recarsi in quel tratto di costa, definendolo pericoloso perché costellato di ordigni inesplosi lasciati dagli stessi militari. Poi di colpo il pericolo e l'ordinanza spariscono, quando è Prada a volerlo usare come scenario per la sua nuova collezione, come è successo nella primavera 2021. La guerra inizia qui, fermiamola qui. Quest'anno torniamo a Teulada a fare il bucato alle reti, perché questa base NATO rappresenta uno dei punti nodali della filiera bellica nell'isola. Il poligono in questione ospita da oltre 50 anni costanti esercitazioni in mare, a terra e in aria per addestrare militari di mezzo mondo a portare altrove morte e devastazione. Ecco, quindi insomma, poi il volantino è molto lungo, lo trovate comunque sui siti di movimento e ne riparleremo anche ancora, magari può essere anche che riusciamo a fare, quando proprio si svolgerà, qualche sì, qualche vocale, qualche intervento. E appunto ricordo che questa manifestazione per l'8 marzo antimilitarista è una manifestazione separatista e quindi diciamo che è aperta a donne, lesbiche, trans, persone non binarie e niente, per stasera direi che la parentesi femminista si conclude così, mi pare che c'è stata abbastanza carne al fuoco e io intanto vi saluto e ci sentiamo prossimamente. Ciao. Bene, sono le 9:20 e 52 secondi di questo giovedì 23 febbraio, ultima puntata di febbraio, per febbraio, di Zardins Magnetics. Io prima di lasciare all'altra voce la lettura dei contatti e i saluti finali, e di salutarvi anch'io, vi do gli ultimissimi proprio appena usciti dal forno aggiornamenti di questi ignobili questurini di Roma che hanno portato tre compagni dei cinque fermati all'altare della patria in una questura diciamo secondaria di Roma per fotosegnalamento. Due compass sono usciti dal commissariato, da un altro commissariato. Le denunce sembrano essere vilipendio della nazione, interruzione pubblico servizio, vilipendio delle tombe, accensione e esplosioni pericolose. Tutto questo per aver srotolato uno striscione sopra l'altare della patria, ignobile, ignobile monumento nazionalista, guerrafondaio che c'è nella capitale. E tutto questo insomma si ipotizza per questa azione semplicemente di mediatica, di rilancio della manifestazione del presidio che ci sarà domani a Roma 24 febbraio a partire dalle 11 in presidio, in presidio, presumo io, davanti alla Corte di Cassazione. Insomma, trovate, se vi interessa, chi è interessato trova l'indirizzo preciso della Corte. Poi volevo aggiungere che sempre oggi è anche stata fatta un'altra azione, sempre così, di rilancio mediatico a Trento. Stamattina due compagni hanno occupato la gru vicino a Piazza Fiera in solidarietà ad Alfredo Cospito contro il 41 bis. E poi ancora una cosa, volevo ricordare di nuovo l'appuntamento, diciamo il pullman che parte da Milano stanotte per essere domani mattina a Lione in Francia, dove c'è l'altra udienza d'appello per il mandato d'arresto europeo e a Vincenzo Vecchi, diciamo, indirizzato a Vincenzo Vecchi. Ancora una cosa, sabato 25 febbraio ci sarà in piazzale Loreto uno spezzone, siccome sono previste nella giornata di sabato numerose piazze, diciamo, per l'anniversario, il primo anno dalla guerra, insomma dallo scoppio della guerra in Ucraina. Quindi ci sarà uno spezzone in piazzale Loreto alle 15 a Milano, in solidarietà ad Alfredo e al corteo contro guerra, caro vita governo. Invece a Genova, sempre sabato, al Porto alle 14.30, spezzone in solidarietà ad Alfredo, al corteo idem, contro guerra, traffico di armi e morti sul lavoro, perché si parla del Porto. Ultima così iniziativa, ci sarà sempre insieme i compagni bolognesi, invece insomma più nordico il discorso, in piazza nuovamente al fianco di Alfredo, piazza Nettuno, a partire dalle 18 a Bologna, fuori Alfredo dal 41 bis, chiude il 41 bis, liberi tutti, libere tutte. E direi che sì, c'è molta carne al fuoco e non finisce così, diciamo, non finisce domani la cosa. E io per stasera vi saluto anch'io e appuntamento alla prossima settimana. Bene, sulle note di questa band statunitense, ennesima band dell'Oregon, sempre dalla cittadina di Portland, loro sono gli Hellshock, questo è il loro album Only the Dead Know the End of War, ed è datato 2014. 2012, vabbè, insomma poco importa, comunque è il loro primo album di uscita. Quindi, come è già stato detto, siamo al termine della trasmissione. Vi ricordo che è in diretta radiofonica qui dal Radio Onde Furlane da Udine, e trasmettiamo dalle ore 20 alle 21.30 ogni giovedì. e vi ricordo anche i nostri contatti, oltre a ricordare che il nome della trasmissione è Tardins Magnetics, che se volete contattarci potete scriverci attraverso la posta elettronica, ovvero liberetutti@autistica.org, oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre tutte le puntate di Tardins Magnetics, comunque quella di oggi quelle delle giovedì scorsi, potete riascoltarle attraverso tardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, scusate, tardinsmagneticsradio.noblogs.org. e inoltre domani siamo in replica su Radiazione, che è una web radio, alle ore 17 del venerdì. Bene, vi lascio con un ultimo brano, Quanto Rimane, per questa band statunitense, gli Hellshock. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.